madre sua. Maligno. Ma perché ti ostini tanto a parlarmi di quella là? Padre Mondrone. Appunto perché ti dà tanto fastidio. Maligno. È una terribile sconvolgitrice dei miei piani. È una devastatrice del mio regno. Appena riporto una vittoria, lei già prepara una mia sconfitta. Me la trovo sempre tra i piedi, sempre indaffarata ad attraversarmi la strada, a suscitare fanatici che l'aiutano a strapparmi anime. Ora, però, è venuto il tempo che riporterò su di lei vittorie mai viste. Padre Mondrone. Saranno effimere come le altre. Ancora un breve silenzio. Maligno. Non saranno effimere. Questa volta sarà una vittoria piena. Credeva di essere al sicuro in una fortezza imprendibile. Ora vi ho aperto una breccia che sarà peggiore della prima. Padre Mondrone. Quale breccia? Penso che corri troppo. Sei troppo sicuro di te. Maligno. Ho dalla mia parte anche i teologi. I miei superbissimi sapienti. Se fossi capace di amare, sarebbero i miei amici più cari. I vostri cultori dei dogma vanno abbandonando una dopo l'altra le vostre posizioni. Li ho indotti a vergognarsi di certe formule pappagallesche. A vergognarsi prima di tutto di credere nella mia esistenza e nel mio lavoro in mezzo a voi. Cosa per me utilissima. Padre Mondrone. E con ciò cosa credi? Maligno. Così le favole dell'Immacolata Concezione? Della maternità divina? Della sempre vergine? Della onnipotente per grazia? Vanno ormai sgretolandosi come miserabili sciocchezze. Tra qualche anno resterà appena il vergognoso ricordo di così stupide leggende. A lungo ho dovuto aspettare. Ma ora è venuto finalmente il mio tempo. E l'ora definitivamente mia. Sapessi come lavorano bene i miei alleati. Certi preti. Frati. Sapienti. Dove sono ormai gli scalmanati del suo culto. I suoi simpatizzanti. Sembrava fosse scomparso. Invece era lì. Forse in attesa della mia reazione. Padre Mondrone. Lo so. Sei riuscito a sollevare attorno a tante verità del credo un polverone confusionario e irrespirabile. Credi di far sparire il sole soltanto perché lo hai nascosto dietro un cumulo di nuvole. Ma tutto questo passerà. Basta un soffio dell'Onnipotente per sbarazzarsi di quanto stai costruendo. Un soffio solo e Dio. Nella sua provvidenza. Anche questa volta caverà il bene dal male. Anche da queste confusioni riuscirà a far emergere la verità in tutto il suo splendore. Maligno. Non farti illusioni. Padre Mondrone. So di non illudermi. La fede me lo dice. E tu stesso. Eterno bugiardo. Non credi affatto a questa tua vittoria finale. Tu ti agiti tanto perché sai che Dio ha fissato il tempo in cui, per i suoi disegni, ti lascia strafare. Tu sai che il più potente è Lui. Egli ha davanti a sé l'eternità. In un attimo ti strapperà di mano le tue momentanee vittorie. Sei l'eterno ridicolo smargiasso. Ti credi onnipotente. O meglio. Vuoi farti credere tale. Ma basta un segno di croce per metterti in fuga. Basta uno spruzzo di acqua santa per paralizzare la tua onnipotenza. La parabola del grano e della zizzania è stata detta soprattutto per te. Sei semplicemente ridicolo nelle tue millanterie. Sei un povero cane legato alla catena. Tu non puoi nulla di più di quanto Dio ti permette. E te lo permette per provare i suoi eletti nel tempo. E per sconfiggere te per l'eternità. Maligno. Come sei diventato eloquente. Due tuo è un bel pezzo di predica per gli stupidi della tua parrocchia. Tu accumuli parole. Io conto sui fatti. Padre Mondrone. Ti sto solamente sbugiardando. La tua storia finirà come è cominciata. Avesti la stupida presunzione di crederti simile a Dio. Ti ribellasti a Dio. In quello stesso istante. Con un soffio precipitò te e i suoi negli abissi infernali. Bastò un cenno della sua volontà per folgorarvi tutti. Per trasformarvi da angeli in orribili demoni. Maligno. Ancora un pezzo di predica. Padre Mondrone. Sai bene che non è predica. È un fatto tremendo. Come tremendo è l'inferno in cui precipitasti. A proposito. Che cos'è l'inferno? Un silenzio. Pesante come un incubo. In nome di lei. Rispondi. Parlami dell'inferno. Maligno. Impossibile dirtelo. Padre Mondrone. Prova a farlo. Maligno. Nemmeno quella là. A Fatima. Seppe spiegarlo. Padre Mondrone. Come? Quei tre poveri bambini per poco non morirono dallo spavento. Maligno. E che cosa videro? L'inferno è ben altro punto accontentati di questo. Ancora una volta ebbi il sospetto che se ne fosse andato. In modo strano mi avvertì invece che era lì. Padre Mondrone. Disgraziato. Eri un angelo. Dio ti creò straricco di doni e di bellezze divine. Avevi l'intelligenza degli spiriti eletti. È inconcepibile come tu e i tuoi abbiate potuto osare un così stolto peccato di rivolta. Come avete potuto infatuarvi di ciò che non era vostro? Rispondi. Maligno. Perché volle sottoporci a una prova infinitamente umiliante per noi. Spiriti altissimi. Una prova inimmaginabile. Degna soltanto di una rivolta. Padre Mondrone. Quale prova? Ancora un silenzio carico di mistero. Su. Nel nome di lei che ti ha imposto di venire. Rispondi. Quale prova? Maligno. Ci impose un ossequio umiliantissimo e inaccettabile. Ci mise di fronte al disegno della creazione del mondo materiale e della incarnazione del figlio di lui. La nostra intelligenza ne sbalordì. Milioni di angeli vigliaccamente si piegarono. Noi. Invece. Lo vedemmo come un affronto alla nostra dignità e ci rifiutammo. La sua vendetta scattò immediata. In un attimo ci trovammo come siamo. Padre Mondrone. E non era un peccato gravissimo di rivolta? Un no, cupo. Lungo. Cavernoso. Da far gelare il sangue. Risuonò per buon tratto nella lontananza. Capii che era scomparso. Lasciandosi dietro un fracasso che parve lo scroscio di una valanga. Tutto lo stabile ne fu scosso. Uscii sul corridoio a spiare per vedere se qualcuno si fosse accorto di qualcosa. Non vidi nessuno. Tre grado incontro la devastazione diabolica. Questa volta non si fece attendere molto. La sera dopo. Non mi ero ancora messo a letto quando udii per la camera dei rumori strani. Erano passi pesanti. Quasi dei tonfi che facevano vibrare il pavimento. avvertita la presenza di lui. Agguantai il mio rosario. Mi feci il segno della croce. Invocando mentalmente la Madonna che avevo a fianco del letto e attesi. Padre Mondrone. Sento che sei qui. Ebbene. In nome di colei che ti obbliga a venire e a rispondermi. Dimmi. Subito dopo il tuo grande peccato. Ti rendesti conto di ciò che avevi perduto per sempre? Maligno. Che domanda stupida. Padre Mondrone. Grazie. Sei molto gentile. So bene che la mia intelligenza non può competere con la tua. Allora permettimi una domanda ancora più idiota. Ti sei mai pentito di quel peccato? Maligno. Pentimento? Scattò subito la risposta. Rabbiosa come un urlo di belva. Ma non sai che un attimo di pentimento sarebbe stato un atto di amore? E questo non è nemmeno concepibile in noi. Noi fummo immediatamente investiti da un odio immenso contro di lui. Un odio implacabile. Eterno. Ci trovammo avviluppati in una maledizione che è divenuta una nostra seconda natura. Avrei voluto concentrare tranquillamente la riflessione sulla disgrazia irreparabile di milioni di creature così eccelse. Ma l'altro mi interruppe. Maligno. Dopo averci espulsi dal suo paradiso. Si è vendicato destinando al nostro posto gli esseri più ributtanti. Voi uomini. Un impasto di spirito e di sporca materia. Vi ha fatti oggetto del suo amore infinito. Va mendicando da voi l'amore che noi gli abbiamo rifiutato. L'amore per voi gli ha fatto commettere pazzie. Perfino quella di umiliare il figlio nel ventre di una donna. Ha l'ambizione di riempire con voi i posti lasciati vuoti da noi. Ma prima che riesca in questo noi riempiremo di voi uomini il nostro inferno. La vendetta che non possiamo prenderci su di lui. La faremo su di voi. Padre Mondrone. Questo è il tuo sogno. Ma tra te e noi. Sul ciglio del tuo abisso infernale c'è Cristo crocifisso. Avrai con te quelli che si ostinano a stare con te. Ma tutti gli altri? Anche i peccatori? Anche i poveri infedeli? Ti saranno strappati come preda che non ti appartiene. Perché sono suoi? Li ha pagati col prezzo del suo sangue. Non è certo che alla fine ne avrai più tu che lui. Ci fu una pausa piuttosto lunga. Ebbi la sensazione che volesse aggredirmi con un discorsone. Infatti passò subito all'attacco. Maligno. Tu ti illudi se speri che potrà averne più di me. Ma non vedi? Cieco e stupido che sei. Come oggi sto mobilitando tutto per la vostra rovina? Non vedi che il suo regno si sgretola e il mio si allarga giorno per giorno sulle rovine del suo? Prova a fare un bilancio tra i suoi seguaci e i miei? Tra quelli che credono nelle sue verità e quelli che seguono le mie dottrine? Tra quelli che osservano la sua legge e quelli che abbracciano la mia? Pensa soltanto al progresso che sto facendo per mezzo dell'ateismo militante, che è il rifiuto totale di lui. Ancora poco tempo e tutto il mondo cadrà in adorazione dinanzi a me. Sarà completamente mio. Pensa alle devastazioni che sto portando in mezzo a voi servendomi principalmente dei suoi ministri. Ho scatenato nel suo gregge uno spirito di confusione e di rivolta che mai finora mi era riuscito di ottenere. Avete quel vostro pecoraio vestito di bianco che tutti i giorni chiacchiera, grida, blatera. Ma chi lo ascolta? Io ho tutto il mondo che ascolta i miei messaggeri e li applaude e li segue. Ho tutto dalla mia parte. Ho le cattedre nelle scuole con le quali ho sconfitto la vostra filosofia. Ho come la politica che vi disgrega. Ho l'odio di classe che vi dilacera. Ho gli interessi terreni. L'ideale di un paradiso in terra che vi accanisce gli uni contro gli altri. Vi ho messo in corpo una sete di denaro e di piaceri che vi fa impazzire e sta facendo di voi una cozzaglia di ladri e di assassini. Ho scatenato in mezzo a voi una sensualità che sta facendo dell'umanità una sterminata mandria di porci. Ho la droga che presto farà di voi una massa di miserabili larve di foglie di moribondi. Vi ho portati ad adottare il divorzio per sgretolare le vostre famiglie. Vi ho portati ad approvare l'aborto con cui faccio stragi di uomini prima che nascano. Tutto quello che può rovinarvi non lo lascio intentato e ottengo ciò che voglio. Ingiustizie a tutti i livelli. Per tenervi in un continuo stato di esasperazione. Guerre a catena. Che devastano tutto e vi portano al macello come pecore. E insieme a questo la disperazione di non sapervi liberare dalle sciagure con le quali devo portarvi alla distruzione. Conosco fino a dove arriva la stupidità di voi uomini e la sfrutto fino in fondo. Alla redenzione di quello che si è fatto ammazzare per voi bestie. Ho sostituito quella di governanti massacratori. E voi vi buttate a loro seguito come stupidissime pecore. Con le mie promesse di cose che non avrete mai. Sono riuscito ad accecarvi. A farvi perdere la testa. Fino a portarvi facilmente dove voglio. Ricorda che io vi odio infinitamente. Come odio lui che vi ha creati. Sì. Bel guadagno ha fatto. Mandando il figlio a sprecare il sangue per la cosiddetta redenzione. Io vi odio. Vi disprezzo. Padre Mondrone. E con questo? Maligno. Cosa intendi dire? Non basta? Posso continuare? Se credi. Padre Mondrone. Con questo credi di poter cantare vittoria contro Dio? Tu saresti il grande vincitore e Dio il grande sconfitto. Non nego che ti stai dando da fare forse come non mai. Che vai ottenendo seguaci più che in passato. Ma nei tuoi disegni rimani un abilissimo pallone gonfiato. Ti ho già detto che la tua storia finirà come è cominciata. Allora, avresti in un attimo milioni di seguaci. Ma come finì il tuo grido di ribellione? Tu sei condannato per sempre? Mentre Dio è lì sul suo trono di gloria. Maligno, ancora ti illudi? Non hai capito nulla di quanto ti ho mostrato? Padre Mondrone, l'illuso sei tu. Queste tue vantarie possono impressionare un uomo di poca fede. Ma non chi crede fermamente che Dio è Dio e che tu sei un miserabile ribelle. Una sua creatura. Che egli potrebbe distruggere con un soffio. In un attimo solo? Ma non lo farà. Perché tu sei un prezioso strumento della sua gloria. Hai potuto abbindolare milioni di uomini portandoli a non credere in Dio. Ma tu sai che egli esiste? Che è il solo onnipotente? Che ha in mano il destino degli uomini e della storia? Hai voluto ingaggiare la guerra contro di lui e ti sta lasciando riportare alcuni successi. Anche momentaneamente spettacolari. Ma sai bene che il tuo potere è condizionato dalla sua onnipotenza e che la vittoria finale appartiene a lui solo. Maligno, Sarà mia.